Capitolo 3. Ogni mattina portava ora con sé degli impegni precisi. Si doveva fare il giro dei negozi, andare a vedere qualche parte nuova della città e bisognava essere presenti alla pump room, dove le due signore facevano mostra di sé per un'ora, guardando tutti e non parlando con nessuno. Il più grande desiderio della signora Allen era ancora avere un largo giro di conoscenze, e lei lo ripeteva dopo ogni nuova conferma che ogni mattina portava con sé del fatto che non conosceva proprio nessuno. Si fecero vedere alla Lower Rooms e qui la fortuna fu più benigna con la nostra eroina. Il maestro di cerimonie la presentò a un giovane molto distinto perché le facesse da cavaliere. Si chiamava Tilney. Dall'aspetto dimostrava 24 o 25 anni. Era piuttosto alto, aveva modi affabili, sguardo intelligente e vivace, e se non era proprio bello ci andava molto vicino. Si presentò bene e Catherine si sentì al culmine della fortuna. Mentre ballavano non ci fu modo di parlare, ma quando si sedettero a prendere il tè lo trovò simpatico, proprio come già gli aveva dato credito di essere. Parlava con spirito, disinvoltura, e nei suoi modi piacevoli c'era un che di ironico che la interessò, anche se non riusciva a capirlo fino in fondo. Dopo aver chiacchierato del più e del meno, prendendo spunto dagli oggetti che li circondavano, egli improvvisamente le disse: Finora sono stato molto trascurato, signorina, nel porgervi le dovute attenzioni che si convengono a un accompagnatore. Non vi ho ancora chiesto da quanto tempo siete a Bath, se è la prima volta che ci venite, se siete stata nelle upper rooms, al teatro e al concerto e se vi piace il posto. Sono stato proprio negligente, ma vi sentite ora abbastanza a vostro agio da soddisfare la mia curiosità su questi particolari? Se sì, comincio subito. Oh, non c'è bisogno che vi prendiate questo disturbo, signore. Vi assicuro, nessun disturbo, signorina. Quindi, atteggiando il viso a un sorriso studiato e addolcendo la voce con affettazione, aggiunse con aria falsamente melensa: È da molto che siete a Bath, signorina? Circa una settimana, signore, replicò Catherine cercando di non ridere. Davvero? Disse con ostentata sorpresa. Perché dovreste essere sorpreso, signore? Già, perché? Disse nel suo tono naturale. Ma deve risultare evidente che la vostra replica provoca una qualche emozione e la sorpresa si finge più facilmente e non è meno ragionevole di qualsiasi altra. Ora andiamo avanti. C'eravate venuta altre volte, signorina? Mai, signore. Davvero? Avete già concesso alle upper rooms l'onore della vostra presenza? Sì, signore, ci sono stata lunedì scorso. Siete stata a teatro? Sì, signore, ci sono stata martedì. Al concerto? Sì, signore, mercoledì. Siete soddisfatta nel complesso di Bath? Oh, sì, mi piace molto. Ora io devo farvi un sorrisetto compiaciuto e poi potremo di nuovo comportarci da persone ragionevoli. Catherine si girò, non sapendo se era il caso di ridere. Vedo quello che pensate di me, disse lui con gravità. Farò una pessima figura sul vostro diario domani. Il mio diario? Oh, sì, so esattamente quello che direte. Venerdì sono stata alle Lower Rooms. Indossavo l'abito di mussola fantasia rifinito in blu, semplici scarpette nere ed ero piuttosto carina. Ma sono stata importunata da un tipo strano e mezzo scemo che mi ha obbligata a ballare con lui e mi ha frastornata con le sue sciocchezze. Oh, no, no, no, no, certamente non dirò nulla del genere. Posso suggerirvi quello che dovreste scrivere? Beh, se volete. Ho ballato con un uomo simpaticissimo, presentatomi dal signor King, abbiamo conversato a lungo, sembra una persona proprio straordinaria, spero di conoscerlo meglio. Questo, signorina, è quello che vorrei diceste. Ma forse io non tengo un diario? Forse non siete seduta in questa sala e io non siedo con voi? Su questi due punti sono possibili dei dubbi. Ma come potreste non tenere un diario? Come potranno le vostre cugine lontane venire a sapere il tipo di vita che fate a Bath se non tenete un diario? Come si possono raccontare le cortesie e i complimenti di ogni giorno se non si annotano ogni sera in un diario? Come si possono ricordare i vari vestiti e descrivere lo stato particolare della carnagione e l'arricciatura dei capelli in tutte le loro sfumature senza fare continuamente riferimento a un diario? Mia cara signorina, non sono così ignorante delle abitudini delle giovinette come vorreste farmi credere. È quest'uso delizioso di tenere un diario che contribuisce in gran parte a formare lo stile fluente con cui le signore scrivono e per cui vengono generalmente celebrate. È risaputo da tutti che il talento deve essere corroborato dalla pratica essenziale di tenere un diario. Mi sono chiesta a volte, disse Catherine perplessa, se davvero le signore scrivono lettere tanto migliori di quelle maschili, cioè non credo che la superiorità sia sempre dalla nostra parte. Beh, per quanto ho avuto l'opportunità di giudicare, mi sembra che lo stile con cui le donne scrivono abitualmente le loro lettere sia irreprensibile, eccetto che in tre particolari. E quali sono? Una carenza generale di soggetto, una mancanza totale di attenzione per i punti fermi, e una ignoranza molto frequente della grammatica. Però non avrei dovuto temere di declinare il complimento. Non avete un'opinione molto alta di noi in questo campo. Oh, non affermerei come regola generale che le donne scrivono lettere migliori di quelle maschili, come non direi che cantano meglio i duetti o che disegnano meglio i paesaggi. Per ogni talento alla cui base ci sia il gusto estetico, la bravura è molto ben ripartita tra i due sessi. Furono interrotti dalla signora Allen. Mia cara Catherine, disse, ti prego, toglimi questo spillo dalla manica. Temo vi abbia già fatto un buco, il che sarebbe un vero peccato perché è il mio abito preferito, anche se mi ha costato solo 9 scellini al metro. È esattamente quanto l'avrei valutato, signora, disse il signor Tilney guardando la mussola. Vi intendete di mussola, signore? Ho una competenza particolare. Compro sempre da solo le mie cravatte e mi dicono che sono un giudice eccellente. Mia sorella si è spesso affidata a me per scegliere un abito. Ne comprai uno per lei l'altro giorno e tutte le signore che l'hanno visto hanno dichiarato che è stato un affare prodigioso. Non l'ho pagato che 5 scellini al metro ed era autentica mussola indiana. La signora Allen rimase molto colpita. Oh, gli uomini generalmente prestano così poca attenzione a queste cose, disse. Il signor Allen non sa distinguere un mio abito da un altro. Dovete essere di grande conforto per vostra sorella, signore. Lo spero, signora. E scusate, signore, che ne pensate dell'abito della signorina Morland? È molto grazioso, signora, disse esaminando con gravità, ma non credo che resisterà bene al lavaggio. Temo che si logorerà. E come potete, disse Catherine ridendo, essere così, stavo per dire stravagante. Sono esattamente della vostra opinione, signore, replicò la signora Allen, ed è quello che ho detto alla signorina Molland quando l'ha comprato. Ma del resto voi saprete, signora, che la mussola è sempre utilizzabile in un modo o nell'altro. La signorina Molland ne trarrà stoffa sufficiente per un fazzoletto, un copricapo o un mantello. Non si può mai dire che la mussola vada sprecata. Ho sentito mia sorella dirlo una quarantina di volte quando aveva speso troppo comprandone più di quanta gliene servisse. O quando si era sbagliata a tagliarla. Bath è un luogo affascinante, con tutti questi bei negozi. Noi purtroppo viviamo in campagna, non che non vi siano bei negozi a Salisbury, ma è così lontano. 8 miglia sono una bella distanza. Il signor Allen dice che sono 9, 9 precise, ma io sono sicura che non possono essere più di 8. E è un tale strapazzo, ritorno sempre stanca morta. Qui invece basta fare 2 passi e in 5 minuti si trova quello che si vuole. Il signor Tilney era abbastanza gentile da parere interessato a quello che lei diceva, e lei continuò a parlare dell'argomento della mussola finché non ricominciarono le danze. Catherine, ascoltandoli conversare, pensò che quel suo assecondare le stravaganze altrui fosse un po' eccessivo. A cosa state pensando così seriamente? Le chiese mentre ritornavano alla sala da ballo. Oh, spero non al vostro accompagnatore, perché dal modo in cui scuotete la testa si capisce che le vostre meditazioni non portano niente di buono. Catherine arrossì e disse: Oh, non stavo pensando a niente. Sicuramente questa è una risposta profonda e astuta, ma preferirei che mi diceste subito che non volete dirmelo. E va bene, allora, non voglio dirvelo. Vi ringrazio, poiché in questo modo potremo conoscerci meglio, dato che sono autorizzato a stuzzicarvi. su questo argomento ogni volta che ci incontreremo e non c'è niente al mondo che aiuti tanto ad approfondire la conoscenza tra due persone. Ballarono di nuovo e quando la riunione finì si separarono con una forte intenzione, almeno da parte della giovane donna, di rivedersi. Non è possibile appurare se prima di andare a letto, mentre beveva il suo vino caldo con acqua, lei abbia pensato a lui tanto da sognarlo durante la notte, ma spero che, se questo è capitato, non sia stato che durante un sonno leggero o al massimo verso il mattino, perché se è vero, come ha affermato un famoso scrittore, che non c'è giustificazione alcuna per una giovinetta che si innamori prima che l'altro abbia dichiarato il proprio amore, deve essere estremamente sconveniente che una giovinetta sogni un uomo prima di sapere che lui l'ha sognata per primo. Forse il signor Allen non si era ancora chiesto se il signor Tilney poteva essere la persona adatta a sognare o a innamorarsi di Catherine, ma, dopo aver preso informazioni, si era convinto che non c'erano obiezioni perché diventasse un conoscente della giovane che gli era stata affidata. Infatti, all'inizio della serata, egli si era dato da fare per sapere chi fosse il cavaliere di Catherine. Egli era stato garantito che il signor Tilney era un ecclesiastico e apparteneva a una famiglia molto rispettabile del Gloucestershire. Capitolo 4. Il giorno seguente Catherine si affrettò verso la Pump Room con un'ansia maggiore del solito, sicura in cuor suo di vedere il signor Tilney prima della fine della mattinata e pronta ad accoglierlo con un sorriso, ma non ci fu bisogno di nessun sorriso. Il signor Tilney non apparve. Tutti gli esseri umani presenti a Bath si fecero vedere nella Pump Room in un momento o nell'altro delle ore di vita mondana, eccetto lui. Folle di persone entravano e uscivano continuamente, salivano e scendevano gli scalini, gente di cui a nessuno importava e che nessuno voleva vedere. Solo lui era assente. «Che posto delizioso è Bath», disse la signora Allen quando si sedettero vicino al grande orologio, dopo aver fatto mostra di sé, passeggiando per la sala fino a stancarsi. «E come sarebbe piacevole se conoscessimo qualcuno?» Questo desiderio era stato espresso così spesso e inutilmente che la signora Allen non aveva un motivo particolare per sperare che questa volta avrebbe avuto un esito migliore, ma ci dicono di non disperare di nulla che ottener vogliamo, poiché la perseveranza instancabile ci darà ciò che desideriamo e la perseveranza instancabile con cui lei aveva desiderato ogni giorno la stessa cosa, alla fine dovette avere la sua giusta ricompensa. E infatti si era seduta da neppure 10 minuti quando una signora, all'incirca della sua età, che si trovava a fianco a lei e l'aveva osservata con attenzione per diversi minuti, le rivolse con gran cortesia queste parole. «Non credo, signora, di potermi sbagliare. È passato molto tempo da quando ho avuto il piacere di vedervi per l'ultima volta, ma non vi chiamate forse Allen?» Avuta una pronta risposta affermativa a questa domanda, la sconosciuta dichiarò che il suo nome era Thorpe e la signora Allen riconobbe immediatamente in lei un'antica compagna di scuola e intima amica che aveva rivisto solo una volta e molti anni prima, da quando si erano tutte e due sposate. La gioia di questo incontro fu enorme, come era ben logico, considerando che nessuna delle due si era preoccupata di sapere niente dell'altra durante gli ultimi 15 anni. A questo punto vennero scambiati i complimenti di rito sul buon aspetto di entrambe e dopo aver osservato com'era volato il tempo dall'ultima volta che si erano viste, come nessuna delle due si aspettasse di incontrare l'altra a Bath e che piacere fosse imbattersi in una vecchia amica, continuarono a fare domande e a dare notizie sulle loro famiglie, sorelle, cugini, parlando tutte e due insieme molto più disposte a dare che a ricevere informazioni, mentre ognuna sentiva molto poco di quello che diceva l'altra. La signora Thorpe comunque godeva nella conversazione di un gran vantaggio sulla signora Allen, costituito dai suoi figli, e quando cominciò a spaziare sul talento dei suoi figli e la bellezza delle figlie, quando raccontò di quello che facevano e delle prospettive future, che John era a Oxford, Edward era al Merchant Taylors e William era imbarcato, e che tutti e tre erano nelle loro diverse posizioni più amati e rispettati di quanto siano mai stati altri tre esseri viventi, La signora Allen non ebbe notizie simili da fornire, né simili trionfi da imporre all'ascolto svogliato e scettico dell'amica, e fu costretta a restare seduta e a far finta di ascoltare tutte queste effusioni materne, consolandosi comunque con la scoperta, presto fatta dal suo occhio acuto, che il merletto del mantello dell'amica non valeva la metà del suo. Ecco che arrivano le mie care ragazze, gridò la signora Thorpe, indicando tre giovani donne dall'aria elegante che sotto braccio le si stavano avvicinando. Mia cara signora Allen, desidero tanto presentarvele. Saranno così felici di conoscervi. La più alta è Isabella, la maggiore. Non è una bella giovinetta? Anche le altre sono molto ammirate, ma credo che Isabella sia la più avvenente. Ci furono le presentazioni con le signorine Thorpe e anche la signorina Morland, che per un po' era stata dimenticata, fu presentata alle altre. Tutte sembrarono colpite dal suo nome e, dopo averle parlato con gran cortesia, la maggiore, rivolgendosi alle altre, osservò ad alta voce: «È incredibile quanto la signorina Morland somiglia al fratello!» «Davvero il suo ritratto!» gridò la madre. «Dovunque l'avessi vista avrei capito che era sua sorella!» Fu la frase ripetuta due o tre volte da tutte. Per un attimo Catherine rimase sorpresa, ma la signora Thorpe e le figlie avevano appena iniziato a raccontare come avevano conosciuto il signor James Morland, quando lei ricordò che il fratello maggiore ultimamente era diventato intimo amico di un giovanotto del suo stesso college che si chiamava Thorpe e che aveva passato l'ultima settimana delle vacanze di Natale con la famiglia di quest'ultimo vicino a Londra. Dopo che tutto fu spiegato, le signorine Thorpe espressero in modo molto gentile il loro desiderio di conoscerla meglio, di considerarsi anzi già amiche a causa dell'amicizia dei fratelli, eccetera. Parole che Catherine ascoltò con piacere e alle quali rispose con le frasi più cortesi che riuscì a trovare. E come prima prova di amicizia, fu subito invitata a fare un giro per la sala sotto braccio alla maggiore delle signorine Thorpe. Catherine fu felice di avere così allargato il raggio delle sue conoscenze a Bath e mentre parlava con la signorina Thorpe quasi dimenticò il signor Tilney. L'amicizia è sicuramente il balsamo che può curare gli spasimi di un amore deluso. La conversazione si volse verso quei classici argomenti che sono in genere di molto aiuto nel creare una immediata intimità tra due giovinette. Argomenti come gli abiti, i balli, i flirt e i tipi buffi. La signorina Thorpe, comunque, che aveva 4 anni più della signorina Morland ed era almeno di 4 anni più informata, si trovava decisamente in vantaggio nel discutere questi argomenti. Poteva paragonare i balli di Bath con quelli di Tunbridge, la moda con quella di Londra, poteva correggere le opinioni della sua nuova amica a proposito della raffinatezza di molti articoli di abbigliamento. Riusciva a scoprire un flirt tra un uomo e una donna che appena si sorridevano e a mostrarle un tipo buffo in mezzo alla folla più fitta. Simili capacità furono doverosamente ammirate da Catherine, per la quale erano completamente nuove, e il rispetto che le ispiravano spontaneamente avrebbe potuto essere troppo grande per dare luogo alla familiarità se i modi disinvolti e vivaci della signorina Thorpe e le sue frequenti espressioni di gioia per averla conosciuta non avessero attenuato qualsiasi sentimento di soggezione per lasciar posto solo a un tenero affetto. Il loro attaccamento crescente non poté essere soddisfatto da una mezza dozzina di giretti nella pump room, ma richiese, quando tutte insieme la lasciarono, che la signorina Thorpe accompagnasse la signorina Morland proprio fino alla porta di casa del signor Allen e che là si separassero con le più prolungate e affettuose strette di mano. Dopo aver saputo, con sollievo di entrambe, che si sarebbero viste la sera a teatro e avrebbero pregato nella stessa cappella la mattina seguente. Catherine, quindi, corse subito al piano superiore e osservò dalla finestra del soggiorno la signorina Thorpe che si allontanava lungo la strada. Ammirò il suo portamento pieno di grazia, l'eleganza della sua figura e del suo vestito e si sentì quanto mai grata per l'occasione che le aveva procurato una simile amica. La signora Thorpe era vedova e non molto ricca, era una donna simpatica e buona e una madre molto indulgente. La figlia maggiore aveva una bellezza notevole e le più giovani, pretendendo di essere avvenenti quanto la sorella, imitandone i modi, vestendo con lo stesso stile, se la cavavano molto bene. Questo breve resoconto a proposito della famiglia serve a evitare la necessità di un lungo racconto minuzioso e particolareggiato da parte della stessa signora Thorpe delle sue vicende e sofferenze passate, che altrimenti avrebbero potuto tranquillamente occupare 3 o 4 capitoli, dove si sarebbe rilevata l'indegnità di lords e avvocati e sarebbero state rievocate nei minimi particolari conversazioni avvenute 20 anni prima.